12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, andremo alla scoperta del lavoro nel settore agricolo e con il nostro ospite Matteo Zanchettin proveremo a capire cosa vuol dire essere un agricoltore oggi, qual è il percorso formativo da seguire, quali sono effettivamente gli sbocchi professionali e le opportunità occupazionali. Ci siamo informati un po' su questo settore e per prima cosa abbiamo scoperto che la descrizione di agricoltore fa riferimento a diverse tipologie definite a livello normativo. È agricoltore chi gestisce un'azienda agricola e svolge attività agricole appunto connesse. È coltivatore diretto, un piccolo imprenditore, chi si occupa personalmente e con continuità della coltivazione e dell'allevamento degli animali e ricava il suo sostentamento appunto dal proprio lavoro. È imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento e attività connesse appunto a una di queste. È imprenditore agricolo invece professionale chi dedica direttamente o in qualità di socio di una società almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle queste attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. In generale comunque caratteristiche proprie dell'attività agricola sono la varietà dei lavori possibili e l'elevato livello di integrazione tra funzioni produttive, gestionali e di servizio. Negli ultimi anni poi, in conseguenza di una maggiore attenzione per l'ambiente, anche in questo ambito si stanno affermando nuove figure professionali legate ad esempio all'industria di prima trasformazione, all'agriturismo, alla produzione biologica. Ad esempio, l'agricoltore specializzato in coltivazione biologica produce rispettando l'ambiente, valorizzando le risorse, sfruttando la naturale fertilità del suolo senza l'impiego di fertilizzanti, pesticidi e farmaci a uso veterinario derivanti da sintesi chimiche e senza organismi geneticamente modificati, i cosiddetti OGM. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora proviamo a capire meglio questo settore professionale insieme al nostro ospite Matteo Zanchettin. Matteo, benvenuto a 12 minuti. Buongiorno. Matteo, ci racconti chi sei e di cosa ti occupi? Io mi chiamo Matteo Zanchettin, come avete già sentito, sono un agricoltore. Ho iniziato da poco questa attività, prima avevo fatto diverse esperienze in agricoltura, però l'obiettivo mio era sempre stato quello, bene o male, di svolgere questa attività o in proprio o come dipendente. Alla fine ho deciso di aprire la mia azienda agricola per, diciamo, coronare questa scelta professionale, ecco. Ecco Matteo, qual è stato il tuo percorso formativo anche che ti ha portato appunto ad arrivare a svolgere il lavoro di agricoltore? Beh, è simpatico perché comunque il mio percorso ha una parte formativa e una parte forse deformativa, nel senso che la parte formativa sicuramente è stata la parte universitaria che mi ha portato a studiare. Comunque, ecco, che università agraria, hai frequentato? Ho scienze forestali, la facoltà di agraria, qualcosa di molto simile a quello che faccio, anche se allo stesso tempo molto diverso. E prima avevo fatto un perito chimico industriale, perché è una cosa che non c'entrava niente. E in realtà c'è la parte deformativa, se vogliamo, è quella di abbandonare il percorso accademico e per dedicarsi a un'attività nuova, perché l'agricoltura per un forestale non è proprio concepita come attività. Sì, diciamo che non è proprio la stessa cosa, ecco. No, sicuramente. Ecco, e quindi terminati appunto gli studi appunto che avevi fatto più o meno in un altro settore, poi quali sono le conoscenze e le competenze che insomma hai dovuto sviluppare per svolgere questa professione e in che modo l'hai fatto? Diciamo che ho dovuto ricominciare completamente da zero, perché io non sono figlio di agricoltori e quindi ho dovuto imparare completamente qualsiasi cosa come se fosse stata nuova, e di fatto c'è tutta la parte manuale del lavoro, che è il 90% del lavoro di contadino, che era completamente sconosciuto. Ho imparato a usare bene, non so, un motocoltivatore, la zappa, o comunque a capire la terra quando è il proprio momento di fare alcune lavorazioni, alcune no. È tutto un senso pratico che al quale noi durante la nostra vita professionale non veniamo mai formati. Basta pensare che comunque si studia dalle elementari all'università delle cose che sono soprattutto teoriche. Certo, no, quindi poco pratiche, ma e quindi poi queste conoscenze te le sei fatte proprio, come si suol dire, sul campo, cioè nel senso imparando e lavorando? La parola, certo. Matteo, allora ci fermiamo per un breve intervallo musicale e poi riprendiamo a scoprire la professione di agricoltore. Dodici minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti. Nella puntata di oggi stiamo approfondendo il lavoro nel settore agricolo e nella prima parte della puntata il nostro ospite Matteo Zanchettin ci ha raccontato qual è un possibile percorso formativo per intraprendere la professione di agricoltore e quali sono le competenze che bisogna sviluppare, competenze che appunto si possono acquisire proprio sul campo. Matteo, dagli studi al lavoro, com'è stato per te il passo? Cioè quali sono secondo te i canali di accesso a questo mestiere? Beh, come dicevo prima, è un lavoro che ha bisogno di moltissima pratica e quindi il canale d'accesso principale è fare pratica. E nel mio caso non avevo nessuno che mi insegnavano, i miei genitori e la mia famiglia non sono agricoltori, per cui ho dovuto arrangiarmi. E per questo ho fatto diversi tirocini, e mi sono iscritto a un'associazione che si chiama WUF, cioè che si organizza degli scambi in agricoltura, degli scambi alla pari, dei tirocini alla pari in aziende biologiche, e ho fatto appunto diversi periodi di stage, diciamo, in queste aziende. Matteo, quanto è durato esattamente il tuo periodo di stage? Allora, i vari stage durano 1 o 2 mesi a seconda di come ci si mette d'accordo con l'imprenditore che ti ospita, e però in tutto il mio periodo di praticantato è durato quasi 3-4 anni. Beh, un periodo insomma abbastanza notevole, ma immagino che sia un periodo anche necessario proprio per apprendere, no, il lavoro. Beh, in qualche modo bisogna pagare il maestro, anche in questo caso è l'esperienza, cioè la pratica, ecco. Certo. Matteo, quali sono secondo te le difficoltà e invece i pregi, le cose belle di questa professione in questo momento storico oggi in Italia, quindi nel mercato del lavoro di oggi? Beh, è il mio lavoro in cui per farlo bisogna essere per forza innamorati di questo lavoro, perché comunque c'è bisogno di tantissimo tempo, e tempo che difficilmente viene remunerato completamente dal lavoro, e quindi abbiamo una prima difficoltà economica legata al fatto che gli stipendi, visto che il prezzo della merce è basso, e quindi anche lo stipendio è basso, allo stesso tempo però molto alti sono i costi di investimento iniziale, per cui soprattutto la terra ma anche i macchinari, diciamo che sono un primo ostacolo abbastanza grande da sormontare, diciamo. L'altro aspetto molto importante, almeno per me, è che a me piace stare molto all'aperto, che è un pro e un contro di questo lavoro. Si sta fuori, all'aperto, in campo, col tempo bello, brutto, con la pioggia, con il sole cocente, a volte anche con la neve, e mi rendo conto che non a tutti può piacere questa cosa. A me personalmente piace, e sono molto contento di vedere le stagioni che avanzano, anche i ritmi della giornata, di viverli quotidianamente, di vedere i fiorellini con tutti gli insetti che ci sono e che li visitano, e diciamo in questo modo vivo la natura in maniera integrale. Diciamo che questo qua è il lavoro in cui più la persona può vivere la natura e anche attraverso il proprio lavoro curarla, e questo secondo me è, diciamo, quello che mi spinge a continuare a essere contadino, e mi fa felice di esserlo, diciamo. Beh, si capisce, Matteo, nel senso che proprio da questa cosa che ci stai raccontando, insomma, si sente che per fare questo lavoro sicuramente ci vuole una grande passione, ecco, un grande amore per questo tipo di attività. Matteo, io ti ringrazio per essere stato con noi 12 minuti e per tutte le informazioni e i consigli che ci hai dato. Ok, grazie a voi, buona giornata. 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Per chi volesse quindi inserirsi nel mondo del lavoro nel settore agricoltura, vi segnalo innanzitutto che in Veneto esistono moltissimi istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, tra cui scegliere dopo il conseguimento della licenza media. Per avere l'elenco completo degli istituti potete andare al sito www.venetolavoro.it/sopralamediaweb. Per quanto riguarda la formazione universitaria, l'Università degli Studi di Padova ha attivo il corso di laurea triennale in agraria, negli indirizzi di riassetto del territorio e tutela del paesaggio, scienze e cultura della gastronomia e della ristorazione, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, animali e viticole ed enologiche, e tecnologie forestali e ambientali. Per informazioni potete rivolgervi al servizio orientamento scrivendo a orienta@unipd.it. Vi segnalo alcuni riferimenti utili in merito alle principali associazioni di categoria e di settore a cui rivolgersi per maggiori informazioni sulla professione di agricoltore. www.aiab.it, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura, www.anga.confagricoltura.it, l'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori, www.coldiretti.it, la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, e www.confagricoltura.it, che è la Confederazione Generale dell'Agricoltura. E per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana, ultima puntata di questa edizione di 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro, in cui proveremo a fare il punto dopo un anno insieme di come si sta muovendo oggi il mondo del lavoro e che opportunità ci sono per i giovani in cerca di occupazione. Ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! Dodici minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.